Salva Danaio. Vogliamo parlare di figli? Non in senso emotivo, né di attaccamento, né di esperienza. Naturalmente tutte cose che non si possono accantonare, ma oggi facciamo i conti. Quanto costano questi figli? Quanto costa averli? Quanto costa crescerli? E forse a livello sociale anche un altro interrogativo da porsi è quanto costa non averli. Intanto buongiorno da Irene Zerbini, a voi che ci seguite. Se volete partecipare al 349-238-6666 potete inviare gli sms, se volete telefonarci fatelo all'800-24-0024. E un saluto anche in regia a Paolo Corleoni, grazie per l'assistenza, e a Barbara Bianchi. Ora, 6 italiani su 10 sembra, secondo gli ultimissimi dati arrivati ieri da Coldiretti, sono in difficoltà seria, e addirittura il 6% delle famiglie non arriva a fine mese. Quando si va a guardare più nello specifico e con la lente di ingrandimento queste famiglie, spesso si scopre che ci sono figli e figli minorenni che contribuiscono naturalmente all'incremento della spesa. Basti pensare che una coppia con prole, e spesso non c'è nemmeno la coppia perché naturalmente le realtà monogenitoriali sono sempre più diffuse, in media una coppia con prole deve affrontare una spesa dal 25% al 35% del proprio reddito per il mantenimento del figlio, 25-35% in più rispetto a una coppia con la stessa occupazione, con la stessa collocazione socio-economica, ma senza figli. E c'è anche chi ha compiuto uno studio approfondito per cercare di capire quanto può costare di allevare un figlio dalla nascita fino alla maggiore età, e questa è la Federconsumatori. Ebbene, l'associazione ha calcolato che la spesa ha naturalmente un ammontare variabile a seconda del luogo dove si cresce, del reddito che si ha a disposizione. Comunque in media una famiglia italiana spende 270.000 euro per il mantenimento di un figlio dagli 0 ai 18 anni. È questa una spesa che potrebbe anche scoraggiare la natalità? Lo chiediamo innanzitutto a un demografo, e dunque saluto e ringrazio il professor Giancarlo Blangiardo dell'Università Bicocca di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Quindi i soldi sono alla base delle scelte sulla natalità? I soldi non fanno la felicità, ma aiutano a non sentirsi infelici, si diceva una volta. È uno dei fattori che ha un suo rilievo, perché evidentemente far quadrare il bilancio familiare non è una cosa da poco, e naturalmente la presenza dei figli ha, come è stato ricordato poco fa, un costo considerevole, e quindi quando non si hanno a disposizione risorse sufficienti, insomma si cerca di tagliare, e qualche volta si taglia proprio lo sviluppo della discendenza, cioè il numero di figli che via via si vanno a fare. Non è un caso che nei modelli ideali gli italiani vogliono più di due figli, 2,18 secondo alcune elaborazioni, nei fatti il numero di figli prodotti mediamente nel corso della propria vita riproduttiva da una donna sono, secondo i valori attuali, 1,4, quindi vuol dire che c'è strada facendo un importante taglio, e ripeto, la componente economica è abbastanza rilevante. Diciamo che secondo alcune stime su dati Istat si ritiene che i casi in cui si dice non farò un altro figlio perché non me lo posso permettere in termini economici, quantomeno arriva a un quinto del totale delle rinunce, quindi spiega praticamente una rinuncia su 5, e tutto sommato non è pochissimo. Ma è una rinuncia privata o è un fattore di cui dovrebbe occuparsi la società e naturalmente la politica per far sì che si inverta la tendenza? Ci arriveremo tra pochissimo, sempre con lei professor Blangiardo, perché sono molti coloro che sostengono, di fronte a una richiesta per esempio di ammortizzatori sociali, di sostegno alle famiglie, sono sono molti coloro che, vivendo senza figli, dicono: è una scelta, è stata fatta, dovevate calcolare prima questa cifra che per esempio stiamo dando questa mattina, quindi prendetevi le vostre responsabilità, sono affari vostri. Ci sono anche queste voci, per fortuna, diciamo così, in percentuale minore, sono voci marginali all'interno del dibattito pubblico, soprattutto del non dibattito pubblico, perché da quando è scoppiata la crisi si parla sempre di più di spread e si parla sempre meno di come migliorare i servizi pubblici, come sostenere le famiglie e come fare delle politiche sociali veramente efficaci. Ha detto il professor Blangiardo, i costi naturalmente incidono sulle scelte di arrivare o meno a fare uno o più figli. E vogliamo chiedere conferma di questa tendenza a Maria Gabriella De Simone. Buongiorno. Buongiorno a lei. Maria Gabriella De Simone è una psicoterapeuta che lavora nell'unità di ostetricia e ginecologia dell'Università di Tor Vergata. Questo significa, professoressa De Simone, che lei ha un contatto diretto con future mamme costantemente, quotidianamente. Ebbene, cos'è che spinge o viceversa fa da deterrente al desiderio di maternità? Dunque, io preciserei che non si deve parlare solo di maternità, ma di natalità, perché in effetti è maternità, ma non dobbiamo dimenticare la paternità. Perché il figlio si fa in due, si partorisce in due e si cresce in due. Beh, non sempre, però, però nella situazione ideale, diciamo. Questo è fisiologicamente documentato e affermato. Quindi io partirei da una crisi proprio della coppia e una crisi della famiglia, a fianco a quello che è la crisi sociale ed economica. Quello che inibisce di più questo desiderio di maternità è sicuramente un tipo di cultura che oggi si è modificato, perché la donna è una donna lavoratrice fuori casa e compromette quello che dovrebbe essere il naturale desiderio di maternità, che è una cosa un po' diversa dall'istinto di maternità. Questo desiderio va sempre di più riducendosi, quindi con una loro rinuncia a questo, perché non è prioritario, secondo la cultura che oggi ci accompagna, vivere pienamente la propria femminilità, che è indice di maternità. Quindi, scusi, secondo lei è dunque più un problema culturale che un problema economico, come alcuni sostengono? Parte da un problema culturale, quindi la crisi io la vedo e l'ho vista prima dell'attuale crisi economica, che sicuramente oggi si è ingigantita per le difficoltà economiche che conducono sempre di più la mamma e la coppia a doversi affermare per star meglio, e quindi il futuro di un eventuale figlio chi me lo garantisce? Sono due. Ora vorrei dare un altro dato che riguarda la disoccupazione, perché spesso viene segnalata naturalmente con preoccupazione. Ebbene, se si scorpora anche il dato della disoccupazione, per esempio ad aprile 2012, ma non è cambiato di molto ora in agosto, la disoccupazione maschile in Italia è cresciuta nell'ultimo anno dello 0,3% al mese, mentre quella femminile cresceva del 4% rispetto al mese precedente. Cioè, sembra dai dati Istat sul mercato del lavoro che il tasso di occupazione a sua volta abbia una differenza di genere. Addirittura l'uomo che si presenta ai colloqui di lavoro da padre viene nella mentalità e nella cultura italiana percepito dall'azienda come più credibile, attendibile, affidabile. Viceversa, l'effetto è l'opposto sulla donna che si presenta da madre. Cioè, nella percezione di colui o di colei che la sta esaminando, sarà meno affidabile come lavoratrice. Ed è anche per questo che le giovani donne sono sempre più prevalenti anche nei lavori precari. No, dico questo, dottoressa De Simone, perché lei ha sottolineato l'importanza della mentalità. E Ed è vero che la mentalità e la percezione anche di poter danneggiare la propria carriera o il proprio lavoro poi spinga le giovani donne a certe scelte. La figura della donna come maternità, come natalità, che va poi appresso alla nostra crisi economica e vanno mano nella mano, per forza, anche perché l'attuale consumismo che viviamo ci costringe, tra virgolette, a non saper rinunciare a tante cose e quindi a voler donare al proprio figlio tanti vizi, tra virgolette, che magari non si sono avuti prima in ognuno di noi. C'è questo desiderio di proiettare nel proprio figlio tante cose in più che io non ho avuto. Questo è un altro concetto un po' sbagliato. Che secondo lei fa anche lievitare la spesa. Torneremo anche su questo. Ora diamo la parola a quelli che aspettano in linea. Il numero, ve lo ricordo, 800 24 00 24. Andiamo ad Arezzo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Alessandro. Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica, figli lei. Dunque, io volevo parlare di rivelare questa questione, perché io sono genitore di quattro figli e per cui ho vissuto sulla pelle che cosa significa crescere quattro figli in Italia. Ma volevo fare un passaggio velocissimo su quello che stava dicendo prima la dottoressa. Sì. Sulla questione del far avere ai nostri figli ciò che forse noi che non abbiamo avevamo, avuto. Non abbiamo avuto, vorremmo. Questa è una questione che è diversa, questo è un aspetto più forse formativo ed educativo. Ma per quanto riguarda invece la questione della famiglia è che nel nostro paese, e su questo dobbiamo essere molto chiari, non c'è la tutela della famiglia, non è esistita una politica della famiglia, in aiuto alla famiglia, in aiuto alle madri, in aiuto alla famiglia che decide di avere figli. Per esempio, Alessandro, adesso noi naturalmente ci affacceremo anche all'estero, dove la percentuale di PIL dedicata al sostegno vero, non alla retorica, non alle chiacchiere sulla famiglia, il papà, la mamma, i divorzi e queste cose, ma il sostegno vero è ben diversa. Ma le chiedo, lei da padre di quattro figli, italiano tra l'altro, avesse potuto invocare e ottenere un intervento concreto negli anni in cui li ha cresciuti, erano piccoli oppure quando erano adolescenti, la prima cosa che avrebbe chiesto quale sarebbe stata? Ma la prima cosa che si chiede è l'aiuto alla famiglia, nel senso che o il padre o i genitori, consentire ai genitori di avere la possibilità di un aiuto concreto per consentire a noi di seguire i nostri figli, di stare con i nostri figli. Sì, ma mi dica cosa, me lo dica. Ma proprio a livello economico, a livello di aiuto della famiglia. C'è un assegno mensile? Di politica della famiglia, un assegno mensile alla famiglia, un aiuto concreto per quanto riguarda l'ingresso alle strutture pubbliche, per quanto riguarda gli asili, per quanto riguarda l'assistenza, per quanto riguarda la cosa più semplice, guardi, l'acquisto dei pannolini. Ecco, quindi lei dice un aiuto concreto, proprio sto cercando di essere il più pratica possibile, è un assegno mensile come si fa all'estero, per esempio? Come in tutta Europa, ad esempio. Ma un'altra cosa, pensi, a me mi hanno dato, io avevo a un certo punto dei miei quattro figli, il secondo e il terzo erano gemelli, per cui le lascio immaginare quanto costava, io lo ripeto, solamente il discorso dei pannolini e poi lasciamo perdere il discorso del latte e tutto il resto. Io ho avuto, questo proprio per quanto le diceva lei, il discorso della retorica, 17.000 lire al mese di rimborso per i pannolini. Quando con 17.000 lire al mese non ci scappa neanche un pacchetto di pannolini. Mezzo pacchetto ci scappava allora. Non sono aggiornata, non avendo bimbi piccoli, su quanto costi un pacchetto di pannolini in questo momento in Italia, ma ricordo cifre proibitive quando nacquero i miei. Grazie ad Alessandro per questo contributo molto concreto. Andiamo a Roma, dove ci aspetta un altro padre a riprova che quando si parla di politiche di welfare e di assistenza a sostegno delle donne e della natalità, in realtà a beneficiarne è tutta la famiglia. Gianni, buongiorno. Ci ha salutato? Gianni, buongiorno. Pronto? Io non sono padre, sono nonno, sono il welfare italiano. Ah, lei è un nonno, quindi il vero welfare italiano. Buongiorno, lei aiuta i suoi nipoti? Prima di entrare nel dettaglio, se lei me lo consente, gentile signora, volevo affrontare il discorso sul fatto culturale, cioè che coinvolge voi donna e il 50% degli italiani. È chiaro, ogni volta si parla di donne si parla del 50-51 a volte per cento. Da lontanissimo 1945 ad oggi tutti si sono riempiti da bocca della famiglia. Sì, sì, è vero. I governi, tutti democristiani, il Papa, la Democrazia Cristiana e tutti i partiti politici. Tutti amano la famiglia. Bene, andiamo in Europa e invito gli italiani che sono in ascolto di usare internet e di fare il confronto tra l'Italia, Francia e Germania. Fermiamoci lì. L'assegno corrisposto dal governo francese alle famiglie a basso reddito di 300 euro per ogni figlio. Qui si parla di assegno mensile, sì, ma non una tanto. Di governo, signora. Io parlo di governo e di regione. E di regione, è chiaro. Poi ci sono gli interventi a livello locale. No. Allora, la Germania, per esempio, senza andare nei dettagli, sommando il welfare nazionale e il welfare locale, assomma 1.000 euro a mese per famiglia per moltissimi anni. Per figlio, mi perdoni. 184 euro per i primi due figli, 190 per il terzo figlio, se vogliamo essere più precisi, 215 governo, euro dal quarto, a livello centrale. I poi lander. Sommiamo i lander e gli interventi appunto locali. Chiaramente. Poi lei, aggiungiamo, gentile signora, che il Trentino Alto Adige, che gode di benefici esagerati da parte dello Stato italiano, e si confronta con gli stati esteri, quindi abbiamo un paese frammentato dove le devo aggiungere un altro elemento, posso? Lo faccia. L'immigrazione massiccia con figli prolifici, come per loro il welfare italiano, miserrimo per l'Europa, è un punto di arrivo. Anche quelle sono naturalmente valutazioni che dipendono da quale situazione si parta, in quale situazione si arrivi, e che dimostrano come poi siano tutte relative, le osservazioni che si fanno prima di decidere sì, posso farcela, mantenere un figlio e lo faccio, oppure no. Ci si diceva anche che i giovani d'oggi sembrano anche più abituati rispetto a 20 anni fa alla situazione di precariato, per cui non sarebbe più la ricerca del posto fisso, ormai si sa utopico, a scoraggiare in qualche modo la ricerca della natalità. E anche di questo discuteremo con voi. Intanto grazie a Gianni da Roma. Vorrei ringraziare anche Francesco Belletti. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Ebbene, Francesco Belletti è il direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, che ha il merito e il pregio di raccogliere, visto che sono pochissimi i dati su questi aspetti, i dati appunto sulla natalità e sul sostegno alla natalità in Italia. Quali sono i fenomeni più importanti da sottolineare, dottor Belletti? Ma noi, diciamo, intanto avevamo individuato un costo minimo di sussistenza per ogni bambino di 300 euro al mese, e questo è un dato minimo che è uguale per tutte le fasce, e poi una spesa media mensile di 800 euro al mese per ogni figlio, e ci si rende conto che questo è l'impatto economico che una giovane coppia di giovani sposi, magari con un solo lavoro, con un minimo di prospettiva, deve mettersi di fronte quando ha la scelta del figlio. E questo ben prima della crisi. Noi è 30 anni che abbiamo... Che monitorate questi costi? No. L'Italia è 30 anni che ha il più basso tasso di natalità, sì, al mondo. Quindi, al di là di questa crisi, questa variabile è assolutamente oggettiva. Tutti gli interventi hanno confermato l'assenza di politiche. Forse potremmo usare un proverbio africano: per educare un fanciullo ci vuole un intero villaggio. Quello che è successo alla famiglia in Italia, che si è sentita da sola di fronte alla sfida del tirar su un figlio per 25-30 anni. Quindi la richiesta di politiche, la richiesta di soldi, di sostegno pubblico, ma anche di conciliazione famiglia-lavoro, è irrinunciabile. Di fatto la famiglia è stata abbandonata in questi lunghi anni. Tra l'altro è vero che ci sono stati tutti i governi democristiani che non hanno fatto niente, ma anche questi ultimi 20 anni, 30 anni di nuova politica di Seconda Repubblica ha abbandonato la famiglia. Quindi la prima cosa è il progetto della famiglia, la famiglia come luogo insostituibile di coesione sociale, e le nuove generazioni interessano al paese, e la risposta purtroppo per le decisioni della politica è negativa. Ogni famiglia deve badare a se stessa e deve arrangiarsi come può, ricorrendo al famoso welfare all'italiana, spesso costituito dalla rete parentale e dai nonni. Ora io vorrei chiedere però al demografo Giancarlo Blangiardo proprio questo: ma secondo lei questo tasso di natalità costantemente basso, il più basso del pianeta addirittura, è un problema sociale, è un problema di tutti? Perché il figlio non è solamente una questione privata? Sì, Sì, allora, anche ricollegandomi un po' ai discorsi di prima, voglio sottolineare che non è solo una questione, come dire, di momento, di crisi congiunturale, perché come ha ricordato Belletti poc'anzi, il famoso numero medio di figli per donna, che è sotto la soglia dei due in Italia, c'è dal 1977, quindi sono più di 30 anni che andiamo avanti sotto, come dire, quello che è il livello di ricambio generazionale, quindi evidentemente non è una questione di crisi attuale, ma è una questione molto più profonda, e sono state ricordate alcune delle cause, il disinteresse, eccetera, eccetera. Ora, le conseguenze di tutto questo, allora, i figli non sono una faccenda privata, perché i figli sono la popolazione del futuro. Senza le nascite non c'è un futuro, è evidente in qualunque popolazione. E se noi consideriamo questo particolare, dobbiamo necessariamente ritenere che la fecondità, la natalità sia comunque un qualcosa che ha una rilevanza sociale importante e per questo merita il riconoscimento. Noi siamo abituati a immaginare a volte questo modello teorico, dice la crescita zero, no? Oggi in Italia nascono circa 500, secondo gli ultimi dati del 2011, 547.000 nascite. Le morti sono state 593.000, quindi già siamo sotto. E comunque in discesa anche rispetto all'anno precedente, perché nel 2010 erano 562.000. Cioè, esatto. Lei dice dal 77 che la natalità è in negativo, però la crisi sembra accentuare questa tendenza. Esatto, la crisi accentua la tendenza, però il problema non è un problema d'oggi, è un problema che viene da lontano ed è un problema rispetto al quale, come è stato anche ricordato, non c'è mai stato nessun interesse. Nessuno ha visto questa cosa come un tentativo di rilanciare l'investimento in capitale umano, che è un elemento fondamentale. Che cos'è questo capitale umano? Beh, il capitale umano è, come dire, la capacità di un paese, di un popolo, di continuare a sopravvivere e ad avere un futuro. Io ho fatto un calcolo che è abbastanza, come dire, curioso, e cioè abbiamo costruito il PIL demografico, no? Noi siamo abituati a ragionare in termini di PIL, quello economico, quello che poi con lo spread fa l'altra parolaccia su cui poi la gente si preoccupa. Invece il PIL demografico è la capacità, a mio parere, di un paese nel produrre ogni anno un numero di anni di futuro. Per capire, ogni volta che nasce un bambino, il popolo in cui nasce questo bambino guadagna 80 anni di vita futura, perché questo bambino vivrà 80 anni. Se arriva, mediamente naturalmente, se arriva un immigrato giovane, naturalmente acquisisce degli anni 50 di futuro. 50 anni, diciamo? Se muore una persona, naturalmente perde quegli anni. Proviamo a fare un bilancio in questi termini, no? Allora, se ragioniamo in termini di numeri assoluti, nati, morti, io ho i dati del 2010, ma vale più o meno quanto il 2011, abbiamo 587.000 morti e 562.000 nati, quindi la differenza è un 4% in meno. Ebbene, proviamo invece a ragionare in termini di anni acquisiti, di anni di futuro acquisiti attraverso le nascite e consumati attraverso le morti o il vivere. Lo stesso bilancio, sempre per l'anno 2010, è che in Italia sono stati consumati circa 60 milioni di anni di vita attraverso le morti e la sopravvivenza. Consumati, bruciati. Bruciati. Beh, vivendo è un dato... e persi morendo. Guarda, questi calcoli, questi numeri che oggi stiamo attribuendo... Ecco, mi faccio aggiungere una cosa però, ne sono stati consumati 60 milioni e ne sono stati prodotti 45 milioni attraverso le nascite. Sì, quindi, sì, è molto chiaro. Abbiamo consumato 15 milioni di anni in più rispetto a quelli che, come PIL demografica, abbiamo prodotto attraverso le nascite. E la compensazione fortunatamente c'è stata attraverso l'immigrazione, perché appunto arrivando immigrati giovani in qualche modo i conti tornano. Però è chiaro che non è questo il modo con cui sistemare i conti di una popolazione. E quanto è importante lo si capisce anche dalla competitività crescente della Cina, per esempio. È stato detto, sempre per usare una terminologia a lei familiare, a lei che fa il demografo, e la Cina è così competitiva anche per i suoi 225 milioni di abitanti sotto i 23 anni. Cioè cifre che fanno paura proprio in termini di potenzialità e di quello che può fare una persona giovane per il suo paese, come può contribuire direttamente e indirettamente. Tutti i temi che approfondiremo tra pochissimo, il numero telefonico da chiamare se volete partecipare a questa trasmissione sugli oneri economici dei figli, 800 24 00 24 oppure sms al 349 238 6666. Sono tanti quelli che ci segnalano i costi degli asili nido. Sapete qual è la città dove è più facile allevare bambini? Sapete quali siano le città? Perché ce n'è, diciamo così, un bouquet che viene indicato dalle ricerche internazionali. Alcune sono in Europa. No, non temete, non c'è nessuna città italiana indicata in questo. E non perché in Italia si viva male, i bambini vivano male, anzi sembra siano molto protetti e seguiti in termini di attenzione genitoriale dei nonni e della famiglia, ma perché le politiche a sostegno della coppia o del genitore, del nucleo con un genitore solo, sono praticamente inesistenti. Ora, si sa anche che la propensione al risparmio delle famiglie italiane continua a diminuire ed è scesa al punto più basso dal 1995. Sempre più eroso anche il potere d'acquisto delle famiglie. Ieri i consumatori lanciavano l'allarme: a settembre, attenzione, aspettiamoci un rincaro del 10%. Questo l'incremento che le famiglie, i consumatori italiani in generale, dovranno sopportare sui prezzi delle materie prime e sulle bollette solo per il caro carburanti. La reazione sarà un'ulteriore riduzione dei consumi. Tutti questi elementi messi insieme ai costi, abbiamo fatto delle cifre vere e proprie, sono state calcolate da studi che prendono in considerazione naturalmente l'onere dell'abitazione, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'abbigliamento, dell'alimentazione, della salute, dell'istruzione, ma scendono in dettagli che vanno anche all'acquisto della bicicletta nuova, una certa età. Ebbene, questi studi hanno calcolato che dagli 0 ai 18 anni un figlio in Italia costi circa 270.000 euro. Qual è il primo intervento di politica sociale efficace per invertire la tendenza tutta italiana al tasso di natalità più basso del pianeta? Cosa servirebbe? Lo chiedo a un altro uomo, perché sono i padri che ci stanno chiamando oggi, a Bergamo. Vladimiro, buongiorno. Buongiorno, io sono un padre, però i miei figli ormai sono già grandi, insomma, e ormai sono già, fanno la loro vita, eccetera. Quello che voglio dire io è un esempio della mia regione da cui provengo, il Trentino. Le posso dire che lì, per esempio, per andare a scuola si paga 60 euro l'anno, per viaggiare tutto l'anno col treno, col pullman, eccetera. Fino alla terza media i libri sono gratis. E poi i costi alle mense, chi ha più due o tre più figli, sono veramente irrisori. Le dico anche un'altra cosa: proprio pochi giorni fa ero sul mio paese, e una famiglia di Verona di 5 figli si è trasferita al mio paese proprio per questo cosa specifica, diciamo, perché il costo della vita dei bambini, eccetera, eccetera, è veramente irrisorio. Ed erano molto contenti di questa scelta, se le posso dire questo. E non lo mettiamo in dubbio, grazie per questa testimonianza. Una regione a statuto speciale, naturalmente, ma sono importantissime queste agevolazioni, dai libri gratis alla mensa a prezzi contenutissimi, e tante agevolazioni perfino sui trasporti che sono state citate. Valerio, buongiorno. Buongiorno. Io sono invece un neopapà di Roma, porto una testimonianza. Congratulazioni intanto per questa novità nella sua vita. Ma secondo lei come intervenire? Incentivi, agevolazioni, assegni? Quale sarebbe il primo intervento efficace per una famiglia? Guardi, secondo me il problema, al di là dell'assegno, che sicuramente risolverebbe, ma dando chiaramente più libertà di manovra alla singola famiglia, secondo me sarebbe più interessante pensare un attimo, o ripensare sicuramente, ai servizi da offrire alle famiglie come la mia, che a 33 anni si accingono ad avere un bambino o ce l'hanno. Porto la testimonianza mia, che mi sono arrivato, diciamo, a sapere a ottobre della mia che sarebbe venuta alla luce a luglio mia figlia. Sono andato ad aprile al comune per capire dell'asilo nido, e mi hanno detto che siccome era aprile le iscrizioni si fanno a marzo, e quindi sarebbero dovevo aspettare un ulteriore anno per fare l'iscrizione all'asilo nido. Ecco, queste cose, certo, qui secondo me sono aberranti rispetto a quello che è poi il desiderio. E quindi se ne sono lavati le mani dietro un cavillo burocratico, diciamo così, perché non è che tutti i bambini nascano da gennaio a marzo, almeno non mi risulta, poi se c'è un'inversione di tendenza, tutti coloro che si trovino a chiedere informazioni dopo potrebbero essere spinti ancora una volta in questa che è la rete del welfare all'italiana. Grazie intanto a Valerio. Ci segnalano in molti la questione degli asili nidi, poi ci scrivono anche dei quasi genitori che ci parlano parlano di più tempo coperti dall'INPS per poter stare con la bambina, non scegliendo chi sta a casa. Ad Amsterdam, ci dicono, anche il papà ha la paternità, mesi pagati per stare con il proprio figlio. Certo, non è una situazione solo di Amsterdam, è una situazione piuttosto diffusa. I congedi parentali vengono distribuiti a seconda delle esigenze dei genitori. Sembra addirittura che in alcuni stati degli Stati Uniti sia aumentato a tal punto il numero di padri che sta a casa per il primo, il secondo, il terzo, il quarto figlio, da aver superato il numero di madri che sceglie il part-time, perché e in molti casi è la donna a guadagnare di più. Comunque, le città in cui è più facile, proprio per questo tipo di politica, allevare figli sono Vienna in Austria, in Svizzera abbiamo Zurigo, Ginevra e Berna, e poi al terzo posto le canadesi Vancouver, Montreal, Toronto e Ottawa. È citata anche l'Olanda al settimo posto. Purtroppo in questa classifica non si vede un nome che sia italiano. Quanto si spende e quando si spende per questi figli? Perché si è molto attenti, e l'hanno citato anche i nostri ascoltatori, ai prezzi dei bambini piccoli. In realtà il prezzo per un figlio cresce anche col crescere dell'età, dico bene, dottor Belletti? Sì, l'investimento delle famiglie naturalmente dipende dalla quantità di risorse che hanno da mettere in campo, e questo significa che in assenza di un intervento di politiche pubbliche si accresce il differenziale di classe, cioè le famiglie ricche possono investire sui propri figli, le famiglie con redditi più bassi sono costretti a schiacciare anche la qualità della formazione, le opportunità di studio, le opportunità di socializzazione. È per questo che c'è bisogno di un intervento pubblico, perché attorno alla famiglia bisogna anche riequilibrare le opportunità di futuro per questi figli. E quindi siamo, Francesco Belletti, possiamo, per chi invece non avesse mai sentito nominare i vostri numeri e la vostra ricerca, dare qualche esempio proprio del costo annuo per un bambino diviso in fascia d'età, come avete fatto voi, dagli 0 ai 3 anni, dai 3 ai 5 anni, dai 6 agli 8 anni, perché spesso non si pensa al costo del ragazzo o della ragazza man mano che si cresce. È molto ovvio, è molto banale pensare ai costi dei primi anni di vita, anche in termini di mancato guadagno del genitore che rinuncia a lavorare. In Italia dobbiamo dire della madre, perché poi questa è la realtà. E di fatto, come ho ricordato prima, la madre in genere ha uno stipendio inferiore, e quindi la scelta di restare a casa per la madre è una scelta banalmente economica, neanche di ruolo, di identità sessuale, perché resta a lavorare chi guadagna di più. No, certamente il punto è che l'investimento sui figli corrisponde a una serie di integrazioni educative, per esempio un corso di lingua straniera, per esempio iscrivere il proprio figlio in una società sportiva. Se non trovi una società sportiva sensibile, per esempio, la tariffa rimane uguale, quindi tu spesso rinunci a un'opportunità di socializzazione, per esempio quando tuo figlio comincia a avere l'età delle elementari, perché non puoi permettertela. È quel tema del capitale humanus che è rimasto in totale carico delle famiglie, come se le nuove generazioni fossero figli solamente dei propri genitori e non un patrimonio di tutta la collettività. Quando fanno le scale di equivalenza nei servizi pubblici usano delle ipotesi del tipo: siccome sono famiglie povere non contiamo i costi di trasporto, non contiamo il costo della macchina. Ma rendiamoci conto che le famiglie in Italia vivono con la macchina, e non è un lusso, è una condizione generalizzata. Allora, se non conteggiamo questi costi, è come se immaginassimo che le politiche per la famiglia sono politiche per i poveri, e questa è una trappola da cui non riusciamo a uscire. È chiaro, sono politiche di investimento sul futuro della società, tant'è che anche in nazioni dove per altre questioni si guarda al reddito, spesso gli interventi sono di tipo universalistico, cioè l'assegno arriva a tutti, anche a coloro che appartengono a una fascia di reddito più alto, spesso proprio perché si decide che l'incentivo e il sostegno a quel cittadino in quel momento minorenne è un investimento per quella società. Domani 800 24 00 24 il numero di telefono, il messaggio SMS 349 238 6666. Buongiorno a Mario. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì, da dove buongiorno. Da dove chiama Mario? Mario, da dove chiama? Sono chiamo dall'automobile, ma ho l'auricolare, quindi sono in regola. Ecco, intendevo? Intendevo da che città? Roma. Bene. Bene, volevo dire, ecco, sono state dette tante cose, anche spesso molto poco precise. So perfettamente che più i paesi sono poveri, più alta è la natalità, così come anche la mortalità neonatale. Quindi è un fatto il più delle volte culturale. Credo anche che il Trentino abbia la più bassa natalità da sempre e le agevolazioni sono non servono per aumentare la natalità, ma per migliorare la qualità della vita. Avere pochi figli è anche una scelta. Io sono non ho figli e sono tra quelli che pagano la scuola e l'università dei figli degli altri, ma ne sono ovviamente contento e orgoglioso perché io ho fatto l'università con l'aiuto ovviamente della società. Quindi non è vero che i figli sono solo a carico di mammina e di papino, perché la società ci mette tanto. Ripeto, io pago il pediatra, i professori dei figli degli altri e ribadisco ancora una volta, sono contento perché questo è giusto. È stato fatto a sua volta per lei. Sì, dica. Pochi figli va bene comunque. Ho capito. Dunque Mario, un po' in controtendenza, ci dice attenzione, non è una questione economica né di sostegno alla famiglia, ma è una questione di mentalità. È una scelta personale quella di fare pochi figli. Tant'è, ci dice che non solo nei paesi più poveri l'incidenza demografica, il PIL demografico, come l'ha definito il nostro professor Blangiardo, è superiore, ma addirittura nella stessa Italia l'apporto per donna straniera al tasso di natalità è superiore all'apporto della donna italiana. Dunque è una questione culturale e non è una questione economica. Chiamo ancora in causa la dottoressa De Simone, che in ostetricia e ginecologia lavora come psicoterapeuta, per chiederle conferma di questa osservazione. Sono anche d'accordo con l'ascoltatore che sosteneva che appunto la crisi della natalità è più presente nei paesi sviluppati che non in quelli sottosviluppati, ma questa è una coscienza sia culturale sia di crescita interiore di stato di femminilità. Noi pensiamo che nella nostra realtà italiana, si diceva prima, anche il professor Belletti l'ha citato, che comunque è una crisi anteriore a quella che attualmente è la crisi economica, perché se noi riflettiamo nel passato, quando comunque c'erano le difficoltà di una guerra dove il futuro avrebbe dovuto o appariva più strano, comunque economicamente anche instabile all'epoca, si procreava e ci si incontrava di più nella coppia. Oggi non ci si incontra nella coppia. Professoressa, dunque secondo lei la crisi anche non sta incidendo sulle donne straniere che lei osserva? Lievemente sta incidendo pure, però sicuramente hanno un concetto culturale un attimo diverso dalla mentalità europea, forse un po' troppo incoscienti, tra virgolette, però incide relativamente rispetto alla popolazione italiana. Dove si oscilla dunque tra incoscienza da una parte ed eccesso, forse quasi di calcolo, possiamo dire così? Italiano sicuramente. Da parte delle donne italiane. È tutto calcolato. Gli ascoltatori di prima hanno fatto riferimento ai sostegni, all'aiuto alla famiglia. È una battaglia che io ho portato avanti per molto tempo. La Commissione Infanzia e le pari opportunità sicuramente hanno dato un grosso contributo ed è l'unico gruppo politico, tra virgolette, apolitico, dove tutti sono d'accordo nella tutela. Perché è un interesse chiaramente trasversale. Grazie, rimanga con noi e torneremo con le vostre osservazioni. Per esempio, ci piacerebbe sentire qualcuno che ha vissuto anche all'estero e capire qualche confronto sul sostegno alla famiglia sperimentato in prima persona. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Quanto costano questi figli e come rimediare alla situazione di decremento costante della natalità in Italia? Più che assegni diretti servono servizi migliori, ci segnala qualcuno con l'SMS. L'Italia vive il problema della famiglia come una parola per battaglie ideologiche. Il welfare è dunque quello di Formigoni e di chi da ricco si fa pagare le vacanze, ci segnala in maniera polemica naturalmente un ascoltatore. Mio figlio è nato il 5 ottobre, chiusura delle iscrizioni il 30 settembre, fuori dall'asilo nido per 5 giorni. Un'altra di queste assurdità negli accessi ai servizi per l'infanzia, segnalato dal messaggio SMS. Ora, volevamo sentire esperienze anche di chi ha vissuto un welfare migliore, un welfare diverso, non sempre per lamentarsi. Per esempio, in Italia sono considerati molto bene i servizi per la salute dei bambini. In questo il rating, diciamo così, dell'Italia è tra i migliori del mondo, così come il tasso di mortalità alla nascita. Ma andiamo a vedere chi ha vissuto fuori per capire cosa si potrebbe forse mutuare nel nostro sistema. Buongiorno a Michele. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Milano. Sì. Autorizzazione, signore Irene, a lei anche in particolare. Grazie. Molto ben, buon programma, ascolto da un po' di giorno a questa parte. Ce ne fosse tanto. Ascolto, allora, sì. Io ho vissuto circa 12 anni in Germania. Mio papà è tuttora là, ha preso anche la cittadinanza, tra l'altro tedesca, penso un po'. Il punto è questo, io ricordavo molto bene, insomma, il punto è questo, da italiano che lavoravo lì all'estero, a Freising, in questo caso vicino in Baviera praticamente, cioè io avevo ogni mese un aiuto del comune, per fortuna, per quale concerne. Ma di che tipo? Che aiuto aveva? In servizi? Aveva un assegno? Aveva un aiuto economico? Sì, un assegno del comune. Un assegno? Io pagavo per l'affitto? 600 marchi, sì. La metà me lo dava il comune. Ed era una cosa molto buona. Ma questo era perché lei aveva figli? Per la sua condizione di genitore? No, quello per la casa. Invece poi a parte avevo anche, parlo in lire, erano circa 170.000 lire all'epoca, avevo un figlio all'epoca, per ogni mese. Però cosa differenziava tra me e il tedesco, il bimbo tedesco? Che in aggiunta al tedesco, il bambino tedesco, avevano 300.000 lire in più al mese. Ma questo perché? Perché giustamente il Lander tedesco, come dire, dava soldi per fare tedeschi, tra parentesi, capisce? Cioè senza discriminazione alcuno. Quindi giustamente noi avevamo anche perché la concezione dell'immigrazione in Germania è spesso una concezione transitoria, nel senso che si pensa in Germania che il turco, l'italiano, chi si trova sul territorio prima o poi se ne andrà. Le faccio un altro esempio. Allora, giustamente noi prendevamo l'assegno per la casa, la metà ce lo pagava il comune, perfetto. Sì. Dice, ma in Italia i giovani non fanno figli il ballevare. Ok, perfetto, perché? Perché in Germania se un giovane vuole mettere su famiglia, anche se non lavora, il comune ti dà la casa popolare. Perché la casa popolare certo. In Germania è un bene dello Stato, quindi bisogna avere la cittadinanza tedesca per avere la casa popolare, cosa invece diversa in Italia, la danno ai più miserabili, insomma, diciamocelo chiaramente, senza essere discriminante. Quindi ovviamente l'italiano non avrà mai la casa, e lo straniero avrà la casa in Italia, che sono fatti con i soldi degli italiani stessi. Quindi un lei parla con questa amarezza perché ha avuto l'esperienza del vivere fuori. Io vivo in casa popolare a Milano, ma per averla ho faticato mica poco. Cioè, venivo sempre scavalcato all'ultimo arrivato. Una cosa un po' strana. Poi l'ultimissima cosa. Michele, veloce perché abbiamo anche altri. Scuola. Adesso in Germania si va già a scuola. Sì. In Italia gli asili sono ancora chiusi. Cioè, sì, ma sì. È tutto chiuso. Scuola? 18 giorni sono le vacanze in Germania. 18 in Italia giorni. Si rinuncia a un mese di pila, è il deserto, sono chiusi perfino i gelatai a Milano, vorrei segnalare. Grazie a Michele. Buongiorno a Lino. Pronto? Buongiorno, mi sente? Mi fa molto piacere sottolineare il grande interesse maschile alla tematica di oggi, perché detto e ridetto dagli economisti, il sostegno alla maternità, alla donna, alla famiglia in generale rende una società più prospera, quindi è una questione di benessere generale. Lino, la sento e ci dica, secondo lei, qual è il primo intervento che bisognerebbe fare in Italia per invertire questa tendenza alla bassa natalità? Sì. Io le porto il mio esempio proprio in questi giorni. Io sono in ferie obbligate in quanto mia moglie lavora. l'asilo, che costa tra l'altro carissimo, superiamo i 450 euro mensili. Dove? Per un asilo comunale in provincia di Venezia, sì, e ripeto comunale. Ora l'asilo è chiuso e io ho dovuto, tra virgolette, prendere ferie per stare a casa per poter gestire mio figlio. In molte aziende estere, e qualcuno in Italia, vedesi per esempio Luxottica, che conosco personalmente, ci sono delle nursery interne, quindi il padre o la madre la mattina vanno al lavoro, portano il bimbo, lo lasciano lì, indipendentemente da quanto tempo, comunque legati ai turni. Alle... Quindi secondo lei nido aziendale, questo è il suo contributo? Giusto? Nido aziendale sarebbe, o migliorare i servizi che sono... La priorità, secondo lei, nido aziendale, di cui si parlava tanto qualche anno fa, abbiamo smesso di parlare di questo tipo di interventi da quando siamo concentrati sulla crisi. Pronto, buongiorno a una donna, finalmente. Buongiorno Silvia. Salve signora Zerbini, complimenti per la trasmissione, salve. Veramente interessante. Silvia, dove chiama lei? Allora, io sono a Milano, ma vivo in Canada, a Toronto, da 15 anni e ho due bambini piccoli. Al terzo quindi... posto nel mondo come vivibilità per bambini. Ci ho allevato i figli anch'io, quindi abbiamo un'esperienza in comune. Ah, ecco, per quello saprà benissimo. Sì. E là, le posso dire dunque che innanzitutto il governo canadese dà a tutte le famiglie, in base al reddito, quelli che, non so, che qua una volta venivano chiamati assegni familiari, penso. Cioè, in base al reddito e in base al numero di figli, viene mandato dal governo un assegno mensile. E le dirò anche di più, che se nelle tasse si dimentica qualcosa, si dimentica appunto di denunciare, delle attività che fanno i bambini, il governo automaticamente ti rimborsa tutto quello che tu non hai speso, che tu quello che hai speso in un anno. Per cui alcune volte io mi trovo a luglio che mi arriva un bel assegno di $1,200 non sapendo il motivo, ma è proprio invece tutti i calcoli che loro fanno in base ai figli, in base al reddito e in base a quello che viene speso. Guardi, io le confermo che una volta ho avuto una telefonata dal fisco a Toronto, che naturalmente mi ha messo in grande agitazione, perché una telefonata dal fisco in qualche modo, certo, intimidisce noi italiani. E avevo dimenticato di chiedere l'assegno familiare per uno, esatto, dei miei figli, e in una settimana ho ricevuto un assegno di $4,000 non richiesto. Esatto. E è un fisco molto attento, per cui va molto, dichiarato molto. Tutto e nulla si perdona, ma contestualmente ci sono anche questi incentivi e questa attenzione dello Stato. Assolutamente. Per cui il rimborso anche arriva molto velocemente. A livello di scuola. Sì. Allora, a livello di scuola le posso dire che per esempio tutti i libri vengono forniti dalle scuole, per cui non c'è assolutamente da comprare neanche un quaderno, neanche una matita, cose che io invece trovo qua in Italia, persino le copertine dei libri, le copertine dei quaderni, 2 euro l'una, che mi sembra una cosa assurda. Perché lì invece viene fornito assolutamente tutto, dal quaderno alla matita al libro. I miei figli vanno a scuola con la cartella solo praticamente il pranzo. E poi perché, i suoi figli, Silvia, e i suoi figli, Silvia, sì, sono italiani o sono canadesi? Sono entrambi, abbiamo tutti doppio passaporto. E questo io l'ho chiesto perché è stato segnalato, sì, no, da qualcuno il fatto che l'Italia sarebbe troppo generosa con gli immigrati. Toronto, che è una delle città in cui si vive meglio a livello di famiglia e di figli, ha una popolazione costituita al 52,2% da persone nate fuori. Nonostante questo ci si permette, su una città di 4 milioni e mezzo di abitanti, un welfare molto capillare. Ma perché? Semplicemente perché lo si vive e lo si vede come un investimento, tant'è che anche la cittadinanza viene concessa dopo 2 anni e mezzo, e quindi si sta investendo sui canadesi di domani. Grazie per questo suo contributo, contributi tutti molto interessanti, quelli degli ascoltatori che hanno avuto anche un'esperienza all'estero. Giancarlo Blangiardo, dunque a livello demografico possiamo dire siamo messi male, è una situazione pericolosa la nostra? Sì, direi di sì, se le cose non vengono, come dire, se non si interviene, se non si fa nulla per invertire le tendenze, il finale è abbastanza chiaro, cioè andiamo verso una situazione in cui questo paese invecchia continuamente, perde forze vitali e naturalmente poi difficilmente riuscirà ad avere anche situazioni di ripresa e di sviluppo in termini economici. Io ho sentito delle cose interessanti, qualcuno magari un po' così discutibile, cioè Mario, tanto per prendere un ascoltatore che parlava... Siamo alle conclusioni e la invito a stringere, mi spiace. Però voglio dire, la pensione di Mario, che gliela pagheranno quei figli non suoi per cui oggi lui contribuisce, quindi teniamo conto anche di questi aspetti. È chiaro, ha fatto bene a sottolinearlo. Grazie al demografo Giancarlo Blangiardo, grazie alla professoressa Maria Gabriella De Simone e grazie naturalmente anche a Francesco Belletti. Da Irene Zerbini con Salvadanaio, appuntamento a domani.